Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Perù con Gianni Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Oggi parto di nuovo per il Sud America. Sono a casa di Gianni Morelli. Mi accoglie con una sciarpa di seta al collo e delle bretelle che reggono i pantaloni. Ci tiene a sottolineare che si è vestito d'artista in occasione dell'intervista. E da quanto mi racconta del paese nel quale sta per portarmi, c'è davvero da essere alternativi. Ma andiamo per gradi. Per prima cosa allacciamo le cinture di sicurezza e decolliamo con lui per il Perù. Nome Repubblica del Perù, capitale Lima, confini. Confina a nord con Ecuador e Colombia, a est con Brasile e Bolivia, a sud con il Cile, a ovest con l'Oceano Pacifico. Abitanti quasi 30 milioni. Clima. Il clima del Perù, a causa della sua notevole estensione da nord a sud e alla differenza d'altezza tra le varie aree del paese, si presenta molto vario. È grandemente influenzato dalla presenza della catena delle Ande e da quella della fredda corrente di Humboldt lungo le coste dell'Oceano Pacifico. In generale, lungo la costa, il clima è subtropicale arido con pochissime precipitazioni. Lungo la catena delle Ande, il clima presenta due stagioni, una estiva piovosa e una invernale secca. L'area amazzonica ha clima caldo umido con piogge durante tutto l'anno e una breve stagione relativamente secca tra giugno e agosto. Forma di governo, repubblica presidenziale. Lingua. La lingua ufficiale è lo spagnolo. Il Quechua e l'Aymara, lingue indigene parlate prevalentemente nella regione andina, sono riconosciute localmente come ufficiali dove il loro utilizzo è effettivamente prevalente. Documenti, passaporto e per visite non superiori ai 90 giorni il visto non è obbligatorio. Moneta, Nuevo Sol Peruviano, 1 euro uguale 3,9 Nuevo Sol Peruviani. Religione, in prevalenza cristiana. Fuso orario, meno 5 ore rispetto al meridiano di Greenwich, meno 6 rispetto all'Italia. Prefisso internazionale, più 51. Cosa avrà mai portato da queste parti il nostro accompagnatore la prima volta? In Perù mi hanno portato due cose. Soprattutto mi ha portato il fatto che mi hanno rubato la macchina. Era metà degli anni 70. E l'anno prima avevo fatto il primo grande viaggio della mia vita, il coast to coast americano Kerouac-Orme, che mi aveva praticamente dissanguato. Io lavoravo, avevo una borsa di studio al CNR all'epoca, per dire, e quindi non avrei mai potuto permettermi di nuovo un altro viaggio analogo. Per fortuna mi hanno rubato la macchina in marzo, aprile, non mi ricordo. E così si è deciso che invece che ricomprare la 500 si usavano quei soldi per fare un altro viaggio, e così abbiamo fatto. E è stato un viaggio molto lungo che ha visto Perù e Bolivia, abbastanza, se vogliamo, tra virgolette, pionieristico, perché in quegli anni in Italia gli italiani viaggiavano ancora poco, erano i primi con gli zaini che giravano, insomma, il solito modello classico che poi è diventato un classico. E da lì è partita una storia importante per la mia vita, perché ho scritto il primo libro sul Perù nella collana delle Club. Ho cominciato quindi a scrivere, ho scritto articoli, ho studiato tanto, quindi ho imparato a, come dire, a leggere un posto, un luogo, uno sguardo, una cultura diverso. Laggiù del Perù mi hanno detto che posso trovare ancora il vero indù, però nel Perù se l'indù non ci fosse più, che cosa farà? Laggiù nel Perù, un bel gioco di parole. Gianni Morelli ci è arrivato per due motivi. Uno ce l'ha appena svelato, l'altro, che introduce il perché dell'abbigliamento ironicamente alternativo, eccolo qui. L'altro elemento che mi ha portato in Perù è sicuramente stato il mito, insomma, il sogno. Il Perù è uno dei 5-10, non so, posti della terra, luoghi della terra che sono i depositari dell'immaginazione, della fantasia, cioè se si pensa in qualche posto di ciascuno di noi, nell'anima di ciascuno di noi c'è un pezzettino che, se sollecitato, emette delle onde che parlano di questi posti. Può essere l'Egitto, può essere il Perù. Io non so se sono come dire, porzioni di elementi ancestrali, che ne so, non lo so, ma fatto sta che credo che valga per tutti. Ecco, il Perù è uno di quei posti lì, e quindi è lontano quasi più che quasi tutto. Adesso non è agli antipodi, ma insomma è nell'altro emisfero, dall'altra parte, un mondo completamente diverso. E però contemporaneamente non solo per gli spagnoli, ma in generale per le leggende, per quello, anche quel poco che uno magari ha visto in qualche film, ci sono dentro delle cose che ti attirano irrevocabilmente. Non a caso negli anni passati quel fenomeno che si chiamava New Age, una volta, insomma, lì era uno delle sue capitali. Una delle cose che lo ha colpito di più, prosegue fin da subito, è la divisione sociale, che in qualche modo qui coincide con la divisione etnica. Tra l'indigeno, l'amerindo, il quechua delle Ande e i criollos, cioè i bianchi o i meticci ricchi, la frattura è abbastanza netta anche adesso. Un po' per la lingua, mi racconta, poiché ancora oggi un peruviano su 10 parla prevalentemente quechua e poco lo spagnolo. E un po' per l'isolamento geografico. Tu che visiti il paese hai un rapporto completamente diverso con questi due mondi. Non necessariamente più stretto con l'uno che con l'altro. Certo, con l'albergatore ovviamente hai un rapporto relativamente stretto per ovvi motivi, però il criollo, se riesci a entrare io l'ho fatto, l'ultimo viaggio che ho fatto per scrivere questo libro di cui parlavamo prima, quindi ho cercato di entrare nei salotti dell'aristocrazia, della borghesia, eccetera, e il rapporto è abbastanza freddo, se vogliamo, no? Naturalmente, come dire, cortese, naturalmente molto formale, però in questo abbastanza mi ricordava le letture dei viaggiatori francesi dell'Ottocento che descrivevano gli aristocratici criollo spagnoli che vivevano come nel 600 ancora lì, più o meno allo stesso modo. E con gli indigeni, con gli indios, tutto sommato anche lì, se riesci a costruire dei rapporti, qualche volta mi è riuscito, riesci a instaurare una relazione, anche di farti invitare a cena, per dire, a pranzo, insomma, quello che sia, mangiando qui, cosa che non auguro a nessuno, ma che però bisogna fare in quelle circostanze. E il qui è un porcellino d'India, sostanzialmente, che viene allevato nelle case dei contadini, e quando visiti la casa, che normalmente è un locale unico, quindi la cucina coincide con tutto il resto, i qui girano per la cucina liberi, tu puoi indicare quello che vorresti mangiare, se ti piace, se no te lo offrono loro, ti dicono quello lì è molto bello, ti piace, sì. Ecco, a parte questo, il problema del qui è che non è buono, secondo me, però è una naturalmente de gustibus. Diciamo, arrivi anche a questo, puoi anche arrivare a questo se ti fermi un bel po', se hai dei rapporti che non siano naturalmente quelli del turista normale che sta due giorni e fine. Però comunque sia, rimane una relazione. Palomita de mi palomar, eres mi palomita de mi palomar, eres, Señor. palomita, mi palomita de mi paloma. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Perù con Gianni Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Perù con Gianni Morelli. Meta New Age per eccellenza negli anni passati, che conserva ancora il suo fascino di paese sospeso tra sogno e realtà. Gianni mi ha anche fatto vedere come la geografia crei una separazione persino culturale e sociale tra i peruviani, gente decisamente accogliente, come quella incontrata per scrivere il suo ultimo libro, Amori, Altopiani e Macchine Parlanti. Personaggi sono i più vari, dico per dire. Mi ricordo sempre quando facendo, a proposito di incontri, facendo sempre il viaggio, uno dei viaggi di lavoro per il romanzo, cercavo di parlare con dei, avevo un appuntamento sostanzialmente, avevo due nomi in tasca di due intellettuali, due storici di Cuzco, molto anziani, diciamo over 75 per capirsi, con cui volevo parlare per farmi raccontare quantomeno dei loro padri per l'epoca che interessava a me. E due personaggi fantastici, uno dei quali ho telefonato quando sono arrivato, ho detto per favore ci vediamo quando vuole, naturalmente se ha tempo, insomma solite cose, soliti convenevoli. Lui mi ha detto: non c'è problema di andare lì subito. Sono andato e stavano festeggiando il funerale di un parente che credo fosse, non so chi fosse, non ho capito esattamente chi era, insomma comunque siamo stati a chiacchierare della Cusco che fu in mezzo a gente che mangiava e beveva con la salma cara accanto, le candele tutte, e un enorme tavolo imbandito e il pisco a volontà, insomma era stata una cosa, all'inizio era un po' imbarazzante per me, mi sembrava di disturbare, invece sono diventato una specie di attrazione, perché poi tutti si fermavano lì, ognuno diceva la sua, tra l'altro che suo zio gli aveva detto che quella roba là nel 1902 era successo, insomma. Ogni città ha le sue tradizioni, spesso, come già accennato, è proprio la geografia a stabilire confini, anche culturali, tra i suoi abitanti. Questa è una delle cose che bisogna capire, cioè questa frattura bisogna accoglierla senza farsene travolgere, anzi magari cercando di valorizzarla. Del resto è una frattura che nel caso di un paese come il Perù vale non solo dal punto di vista culturale, etnografico in questo caso, insomma tu sei in un posto dove prevalentemente ci sono, c'è una società che e quindi si muove in un certo modo, se sei a Lima è una cosa, se sei a Cusco è un'altra, se sei in un villaggio dell'altopiano è ancora un'altra. Ma questo, dicevo, questa frattura nel caso del Perù si moltiplica anche su un piano geografico, se lo vogliamo chiamare così, che poi a sua volta naturalmente diventa un piano culturale, perché la prima grande linea che c'è, non in ordine di, diciamo, di apparizione, se fosse una commedia, perché in realtà chi arriva a Lima la prima linea che la prima cosa che vede fuori la città è il deserto, ma invece per chi viaggia un po', chi vive, chi sta un po' in Perù, la linea più importante è quella che separa le Ande dalla selva, secondo me. Nel senso la separazione ancora una volta è violentissima ed è, sebbene le Ande scendano di gradino, come si dice abbastanza dolcemente in certi posti verso l'Amazzonia, ma in realtà il taglio invece di impressione, di emozione, e di realtà è piuttosto profondo. Escucha, madre mia, la voz de mi cantare, che rotan de mi vida, cual desolado soy. Traigo la tu ausencia, temiendo mi azar. Enferma tengo el alma, herido el corazón. Gianni Morelli mi parla di Perù e di linee del paesaggio peruviano. Linee che demarcano geograficamente e umanamente questa terra. C'è la linea dell'altopiano, quella del deserto, c'è il mare e poi l'Amazzonia. L'altra linea, e lo stavamo accennando prima, è quella tra il deserto costiero e le Ande. Ma vol è anche lì, naturalmente, è una linea. Se pensate che le Ande distano il deserto, diciamo la fascia pianeggiante, semi pianeggiante della costa all'altezza di Lima è larga meno di 50 km, 40-50 km, vuol dire sostanzialmente che le Ande si affacciano, come si dice nei libri, nei vecchi libri di geografia, si affacciano proprio sull'Oceano Pacifico, perché lo vedono. 50 km sono quanto, per chi vive al nord se ne rende conto, insomma, tra Milano e le Alpi, anche meno, solo che le Ande sono 7000 metri, mentre invece la Grigna è 2000, mi sembra, quindi è un po' diverso. Ci sono altre linee che nel deserto danno prova di quanta magia possa regalare questo paese, tracce indelebili di una storia che può essere umana o non solo. Nel deserto del Perù c'è quella cosa straordinaria che si chiama le linee di Nazca, che tutti conoscono, insomma, che molti conoscono, che sono questi disegni giganteschi, cioè dimensioni dell'ordine delle centinaia di metri, tracciati nel deserto di Nazca. Nazca è una cittadina che sta a sud di Lima, un giorno di viaggio in autobus, e sono la cui come dire, spiegazione scientifica è tuttora piuttosto vaga, nel senso che ci ha lavorato molto una studiosa tedesca che si chiamava Rilke, che ha vissuto lì e ha dedicato tutta la sua vita a studiarle, ma in realtà ancora adesso diciamo che quantomeno non si può dire che le spiegazioni che sono date siano del tutto convincenti, nel senso che c'è questo deserto, 500 km quadrati, stiamo parlando di un'area enorme, in cui sostanzialmente ci sono disegnati con sassi e fango. Il clima ha aiutato la conservazione di queste figure, che risalgono a epoca preincaica, tanto per capirsi, figure geometriche perfette, lunghe anche un chilometro, o disegni stilizzati. Il più famoso è il colibrì, chi non ha presente questa cosa ne avrà visto una foto da qualche parte. È un uccello con tante piume ovviamente stilizzate, insomma il ragno è un altro molto famoso, la tarantola in realtà si chiama, mi sembra, e queste figure sono larghe 300-400 metri come dimensioni, e queste figure non erano visibili per chi le ha costruite, perché non ci sono montagne. E a parte il fatto che bisognava farle, però vabbè, diciamo, non è che gli antichi erano stupidi, lo sappiamo, l'abbiamo capito, quindi sapevano fare le cose bene. Però la ragione dello sforzo, perché è uno sforzo grande, no? Oltretutto dovevano fare in modo che si potessero conservare, richiedono in qualche modo manutenzione. Lo sforzo grande, quindi economico, per un popolo che vive in un'oasi, tenete conto che siamo nel deserto, vivevano in un'oasi, quindi non era facile la vita già, non c'era un surplus, si suppone perlomeno, non c'era un surplus economico tale che consentisse di buttare lì un po' di persone che si mettevano a fare questo, un po' tantissime persone che si mettevano a fare queste cose. E oltretutto non si capisce il senso. In Perù è facile trovare un senso a qualcosa che sembrava non averne. Qui si può giocare, si può sognare, si può pensare qualsiasi cosa. A Morelli piace immaginare che le linee di Nazca siano opera degli extraterrestri. Ma questa è una sua debolezza, aggiunge. Ognuno ha le proprie. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Perù con Gianni Morelli. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Il sogno di Gianni Morelli è anche il nostro. In Perù tutto si può immaginare. Lo abbiamo appena lasciato con l'idea che le linee di Nazca, che disegnano grandi opere nel deserto peruviano, siano frutto di una mano extraterrestre. Perché no? Le linee, non solo quelle artistiche e storiche, ma soprattutto quelle geografiche, sono la nostra mappa per orientarci tra le Ande e l'Amazzonia. Provate a immaginare una cosa completamente diversa. C'è un'altra linea, se vogliamo, che è invece una linea circolare perché è chiusa su se stessa, sta a 4000 metri ed è l'altopiano ed è dentro intendo dire tra le due cordigliere, una corre a est, una a ovest, sulle Ande. E l'altopiano è sicuramente di tutti quelli che abbiamo visto, no, forse no, dico, non voglio dire una stupida, non voglio dire è il più, ma insomma, certamente è un posto che per noi terrestri di bassa quota è un posto da affrontare intanto con attenzione e secondo che dà sensazioni particolarmente forti. Le sensazioni sono quelle date non solo dal panorama mozzafiato, ma anche dall'altitudine, che non è da sottovalutare per noi che siamo animali di bassa quota, come dice Gianni. Il viaggiatore che viene in Perù sta per giorni a una quota che va dai 3.800 ai 4.000 metri e questo vuol dire che respira una quantità di ossigeno nettamente inferiore a quella a cui siamo abituati. Ecco forse da dove arrivano tutte queste visioni. Questo dà una serie di problemi. Il più facile, quello lo sanno tutti, il mal d'altura, ma questo se colpisce o è di quelli passeggeri e si cura col mate de coca, con, insomma, o infusi locali, oppure con le pastiglie che ci si porta, oppure è di quelli, come dire, fisiologici, allora bisogna scendere e mollare il colpo. Se non è, però, a parte questo, diciamo, a parte questa attenzione per cui bisogna stare attenti quando si attraversa, è un classico, dopo tre giorni che si è lì e si sta sempre attenti, non ti muovere, non muoverti in fretta, stai tranquillo, eccetera, e lo fai. Viene una mattina, ti alzi, passi e cerchi di attraversare una strada, arriva una macchina, fai 10 passi di corsa, arrivi dall'altra parte del marciapiede e vorresti morire. E questo è un classico perché succede nella... Ed è la metafora di quello che volevo dire, la differenza fondamentale, perché tutti siamo, beh, certo, il Monte Bianco 4.800, se uno fa un giro anche da noi sulle Alpi va a sciare, a volte arriva a 3.500 senza problemi, è un'altra cosa, lo dico, spiego perché lì succede a 4.000 metri tutto quello che da noi succede a Milano 250, in qualche caso italiano, insomma arriviamo a 1.000 metri, ma cose di... Tutto quello che succede normalmente, giocano a pallone per esempio, cosa che è inspiegabile per noi, poi invece loro giocano, vanno in bicicletta in salita, no? Ecco, fanno delle cose, a parte gli scherzi, portano i pesi, fanno come da noi, portano le valigie, anzi lì siccome la manodopera è più, come dire, ancora molto usata rispetto a noi, ci sono meno mezzi di trasporto evoluti, quindi meno quattrini, quindi i pesi si portano ancora a mano, cioè si fa tutto quello che si fa qua, si cucina, si beve, si fuma, loro bevono, fumano, eccetera, no? Allora, è questa la vera differenza, la cosa che in cui bisogna entrare, perché in realtà tu che sei un umano di bassa quota, diciamo così, salendo lì e con quella cosa vivi in una dimensione che è leggermente oppiacea per la mancanza di ossigeno, quindi vai tranquillo, adagio, ma sei sempre, come si sarebbe detto, come si direbbe non in formato ufficiale, un po' fuori, pochino, non in modo esplicito, non in modo evidente. Ora primito pongare toda su cosita, viva la fiesta criolla con todo su recunteco. Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al perro de luna mujer, viviré dichoso y feliz, porque siempre estoy junto a ti. Y cuando la luna con sus albos rayos de luna nos alumbra los dos, tendrán que vivir celos de tan puro amor. La festa a 4.000 metri è appena cominciata. Qui, per noi che veniamo da posti più bassi, c'è tutta la magia creata anche dal poco ossigeno che respiriamo. Morelli mi dice che te ne accorgi quasi subito, se magari bevi un bicchiere di vino. Ne basta solo uno e, visto l'effetto che fa, capisci subito che non partivi da zero. Ed è questo come dire, il succo dell'altopiano, è quello che ti dà l'altopiano rispetto ad altri posti, questo veramente lo vivi solo lì. E credo sia anche, io perlomeno ho pensato a volte che questa è la ragione per cui in realtà poi magari ci siamo fatti anche, non è solo un problema letterario, ma insomma le visioni sull'altopiano, dice, ho visto, oppure le leggende, queste cose che in realtà dipendono un po' anche dal fatto che, oppure invece no, che non è vero, che effettivamente è un posto che dà più possibilità di inventare o di vedere cose che magari non si vedono altrove. Quanto deve essere travolgente comunque stare in quota, in mezzo a quella natura così prepotente e allo stesso tempo in mezzo alla propria fantasia, che qui ha modo di sfogarsi. Se qualcuno ha avuto occasione di leggere qualcuno dei libri dei grandi scrittori, non dico solo Vargas Llosa, che adesso è naturalmente sulle prime pagine, ma Scorza, per esempio, Garabombo l'Invisibile, o questi lui parla di queste cose, parla dell'altopiano, parla di Garabombo che si vedeva e non si vedeva, aveva il dono di semi-invisibilità, piuttosto che Nitta Lope, che è un altro protagonista dei suoi romanzi, che vedeva di notte ma non vedeva di giorno, insomma. E tutte le cose che ci sono intorno e che vengono, poi ci si pensa, è abbastanza normale. L'altopiano è un posto, se ci state di notte e uscite dalla città, non state in città o siete in qualche posto molto un po' isolato, dove si riescano a sentire i rumori, l'altopiano c'è sempre un po' di vento, l'aria è molto rarefatta, si sentono i rumori da lontanissimo. Se voi siete in un punto che non è rumoroso, quindi vi consente di sentire quello che succede intorno, sentite i rumori di chilometri di rumori che arrivano leggeri, mescolati. Sopra di voi c'è un cielo che a 4.000 metri e con l'aria così rarefatta potete immaginare che cos'è, no? Brillante. Un numero di stelle che non avete mai visto, e Marte che vi guarda rosso, Orione, le solite cose, ognuno ha le sue stelle di preferenza, i suoi pianeti naturalmente. E se, ecco, il vento trasporta anche da lontano anche dei profumi di un brodo, non so, una mucca, anche profumi non necessariamente esaltanti, però insomma sempre che danno l'idea che ci siamo, più che mucche, lama o pecore in questo caso, non mucche, insomma questa roba è una cosa, l'insieme di questo è una sensazione che ti travolge. Déjame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria. del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Perù con Gianni Morelli. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Gianni Morelli mi sta portando ora nei luoghi meno visitati del Perù, meno stereotipati, pur credendo lui negli stereotipi, mi spiega. Un esempio è la strada da Puno a Cusco, una volta molto famosa, molto turistica, che si è sempre fatta in treno e che ora, anche per ragioni militari, è stata asfaltata. Questo ha dato la possibilità al viaggiatore di poterla percorrere con mezzi diversi dal treno, come le corriere, e di accedere così a posti mai frequentati prima. Per esempio, un tempio, che si, un posto, un luogo si chiama Raki, se non sbaglio, con la Q, e che io, di cui non ero, pur essendo stato più volte in Perù, non conoscevo l'esistenza, cioè che è un tempio inca con ancora muri altissimi, era una cittadella militar sacerdotale, come sempre loro queste due cose erano mescolate, nel senso che una cittadella del potere, ma una cittadella inteso un posto enorme, dove ci sono ancora queste costruzioni che raramente si vedono, perché sono state, invece lì si vedono ancora muri e come si chiamano, archi di palazzi molto alti, molto grandi, una cosa. Oppure, non so, un altro posto che si chiama Marangani, che è un posto straordinario, di una fabbrica tessile, questa è roba dell'Ottocento naturalmente, una fabbrica tessile tutta con cose costruita con gli acciai di Manchester, e che era uno di quei siti da socialismo utopistico, modello Furino, come quello sviluppato in Europa, sull'Adda da noi per esempio, nel senso che c'era la chiesa, le case degli operai, la FAB, tutto a postino, un posto che naturalmente sull'altopiano peruviano non ti aspetti, invece sì, e lì raccoglie, era anche una cosa geniale, perché c'è il fiume che fornisce l'acqua, è il fiume sacro degli Incas, ma questo non impediva di fornire l'acqua per questo. L'altopiano era il posto dove trovavano la materia prima, lame alpaca, quindi, come dire, il discorso torna. Un filo di problemi di trasporto, perché da lì poi bisogna portarlo a Lima, però insomma si faceva. Trasportare la materia prima con difficoltà e trovare comunque una soluzione sembra un leitmotiv da queste parti. Gianni mi sta infatti introducendo in Amazzonia, dove lui è andato sulle orme di Fitzcarald. Io porterò il grande teatro qui ad Iquitos. Io sono l'astratto. Io sono i miliardi. Io sono, sì, l'incanto della foresta. L'Amazzonia, io ci sono andato per lavorare su Fitzcarrald, il Shur, come direbbero a Milano, Fitzcarrald, che era quello da cui Herzog ha preso spunto per il suo film Fitzcarraldo, e che era un po' diverso da quello del film, nel senso che lui era un grande proprietario terriero, lui, il suo amico Cabeza de Vaca e credo Sanchez il terzo, non mi ricordo più, ce n'era un terzo, si dividevano un territorio tra Bolivia, Brasile e Perù di Amazzonia, dell'ordine grande come Francia e Italia insieme, insomma, cioè un po' una cosa o di più, forse una cosa in un milione di chilometri, fra Francia, Italia e Spagna, milioni di chilometri quadrati, e questo territorio aveva, la storia è effettivamente quella, no? Questo territorio aveva un problema, Iso era isolato dal resto del mondo dal punto di vista dei trasporti, perché verso, verso le Amazzoni c'erano le cascate, i fiumi, e quindi non potevano passare le navi, e verso le Ande non riuscivano a fare a passare sul fiume che li avrebbe portati sulle Amazzoni, passando da nord dove non c'erano cascate. Marinera peruana de Lima. Mátame guitarra vida, taranta. Fitzcarraldo è con noi in Amazzonia. La foresta che ci accoglie col suo mistero è stata teatro della sua fortuna, ma anche della sua fine, come prosegue Morelli. Lui ha semplicemente fatto quello che si vede anche nel film, cioè ha trovato un punto in cui, passando una collinetta, si riusciva a prendere uno di quei fiumi, che poi era non mi ricordo più il nome, non importa, comunque uno di questi fiumi, dal Madre de Dios a uno di questi fiumi, che lo avrebbe portato nell'Urubamba e quindi poi a Iquitos, Belém, Porto e Europa, eccetera, per portare il caucciù. Questa era la storia. E questo lui ha semplicemente portato una nave, ha fatto attraversare a una nave questa collinetta, l'ha portata nella zona, diciamo nel milione di chilometri quadrati. Con questi raccoglievano il caucciù, lo portavano alla collinetta a spalle dall'altra parte, dove c'era un'altra barca, e il gioco era fatto, e questi sono diventati ricchissimi. Lui, Carlos Fermín Fitzcarraldo, è morto annegato in uno di questi fiumi una volta. L'Amazzonia è un altro, quell'Amazzonia lì è ovviamente ricca di spunti, anche quelli di spunti di storie, potete immaginarvi, non parlo di quelle degli indigeni, che sono anche più, come posso dirvi, anche più stupefacenti in tutti i sensi di quelle dell'altopiano, ma parlo anche delle storie dei bianchi. Per esempio su un fiume che si chiama Rio Malinowski, l'abbiamo risalito per andare a vedere i cercatori d'oro, sono lì ancora adesso con le barchette, con motori sfiatati, ma vanno a prendersi la malaria e a setacciare il fiume in condizioni insomma, quelle che si vedono anche sui servizi in Brasile, ce n'è tanti, no? Anche così ancora. Ecco, per dire, l'Amazzonia è anche questa cosa qua, e poi è l'Amazzonia che brucia, e questo vale sempre, e purtroppo. Questo enorme polmone terrestre non è esente dalla follia dell'uomo, e a quel purtroppo mi accodo anch'io. È davvero un paese fantastico. Poi adesso ha questo straordinario momento suo, che stanno crescendo come cresce la Cina dal punto di vista economico, penso siano contenti, non c'è neanche una dittatura, e questo è anche una cosa neanche così frequente, quindi tutto messo insieme, forse diciamo che le cose forse funzionano un po'. Te amo Perù. Ora Gianni Morelli è in libreria con Amori, altopiani e macchine parlanti, edito da Garzanti. Il recorriera tutta la gamma di verdes che ti adornan. Y el gris soberbio manto de tu costa, que al subir por los cerros en colores se torna, me empinaría en tu más alta cumbre para estirar mis brazos y abrazarte.